costruiamo su quello che abbiamo già costruito, stiamo mantenendo tutte le promesse, operiamo in un contesto di conti risanati, abbiamo la ragionevole speranza che la procedura di deficit eccessivi nella quale ci trovavamo al momento in cui abbiamo cominciato a governare possa essere chiusa nella primavera prossima, e nello stesso tempo abbiamo fermato la spesa primaria corrente, comincia a scendere la pressione fiscale, rispettiamo gli impegni con Bruxelles, rimettiamo a diminuire il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo, facciamo importanti interventi sociali, abbiamo risorse per gli investimenti. È una combinazione che, dico la verità, anche a me sembrava quasi impossibile da raggiungere un anno e qualche mese fa.